Ad alta voce. Tommaso Ragno legge Addio alle armi di Ernest Hemingway. Traduzione di Fernanda Pivano. Sul finire dell'estate di quell'anno eravamo in una casa in un villaggio che di là del fiume e della pianura guardava le montagne. Nel letto del fiume c'erano sassi e ciottoli asciutti e bianchi sotto il sole, e l'acqua era limpida e guizzante e azzurra nei canali. Davanti alla casa passavano truppe e scendevano lungo la strada, e la polvere che sollevavano copriva le foglie degli alberi. Anche i tronchi degli alberi erano polverosi, e le foglie caddero presto quell'anno e si vedevano le truppe marciare lungo la strada, e la polvere che si sollevava e le foglie che, mosse dal vento, cadevano, e i soldati che marciavano, e poi la strada nuda e bianca, se non per le foglie. La pianura era ricca di messi, c'erano molti frutteti, e di là della pianura le montagne erano brune e spoglie. Sulle montagne si combatteva, e di notte vedevamo i lampi delle artiglierie. Nell'oscurità erano come fulmini estivi, ma le notti erano fredde, e non si aveva la sensazione di un temporale imminente. A volte nell'oscurità sentivamo le truppe marciare sotto la finestra e passare i cannoni trainati dai trattori. C'era un gran traffico di notte e molti muli sulle strade con cassette di munizioni ai due lati del basto e camion grigi che portavano uomini e altri camion coi carichi coperti da teloni che si muovevano più adagio nel traffico. C'erano anche cannoni pesanti che passavano di giorno trascinati dalle trattrici con le lunghe volate mascherate di rami verdi e frasche e pampini verdi coprivano le trattrici. A nord guardavamo una valle e si vedeva un castagneto e al di là di questo un'altra montagna sulla stessa riva del fiume. Anche per quella montagna si combatteva, ma senza successo. In autunno, quando incominciarono le piogge, le foglie caddero tutte dai castagni e i rami rimasero nudi e i tronchi neri di pioggia. Anche le vigne erano smilze e spoglie e tutta la campagna era bagnata e bruna e morta nell'autunno. C'erano nebbie sul fiume e nubi sulla montagna, e sulla strada i camion schizzavano fango e le truppe erano infangate e fradice sotto le mantelline. Avevano i fucili bagnati e sotto le mantelline le due giberne sul davanti delle cinture, scatole grigie di cuoio piene di caricatori con le sottili e lunghe cartucce da 6,5 mm, sporgevano sotto le mantelline di modo che gli uomini che passavano nella strada avevano l'aria di donne incinte di 6 mesi. C'erano piccole automobili grigie che passavano a grande velocità, di solito con un ufficiale accanto all'autista e parecchi altri sul sedile posteriore. Schizzavano fango perfino più dei camion, e se uno degli ufficiali seduti dietro era piccolo, così piccolo che non gli si poteva vedere il viso ma soltanto la cima del berretto e la schiena stretta, e se l'auto andava più veloce del solito, era probabile che fosse il re. Stava a Udine e usciva a quel modo quasi ogni giorno per vedere come andavano le cose, e le cose andavano molto male. Al principio dell'inverno vennero le piogge continue e con le piogge il colera, ma riuscirono a fermarlo e in tutto l'esercito ne morirono soltanto 7.000. L'anno dopo ci furono molte vittorie. La montagna di là della valle e il fianco della collina col castagneto furono conquistate e ci furono vittorie di là della pianura sull'altopiano a sud, e attraversammo il fiume in agosto e andammo a stare in una casa di Gorizia che aveva una fontana e molti grandi alberi ombrosi in un giardino cintato e da una parte un pergolato di glicini violacei. Ora i combattimenti si svolgevano nelle montagne adiacenti, meno di un miglio lontano. La città era molto carina e la casa molto bella. Il fiume scorreva dietro di noi e la città era stata conquistata molto bene, ma le montagne non eravamo riusciti a prenderle ed ero molto contento che gli austriaci avessero l'aria di volere ritornare nella città a guerra finita, perché così non la bombardavano per distruggerla, ma soltanto un poco, colpendo obiettivi militari. La gente continuava a vivere in città e c'erano ospedali e caffè e artiglierie nelle strade secondarie e due case di tolleranza, una per la truppa e una per gli ufficiali. Alla fine dell'estate, le notti fredde, i combattimenti sulle montagne di là della città, il ferro del ponte ferroviario segnato dalle bombe, la galleria crollata accanto al fiume dove aveva avuto luogo la battaglia, gli alberi intorno alla piazza e il lungo viale alberato che conduceva alla piazza, tutto questo e le ragazze che c'erano in città, il re che passava in macchina e adesso gli si vedeva talvolta il viso e il piccolo corpo dal lungo collo, e l'improvviso interno di una casa cui le bombe avevano sfondato una parete, e calcinacci e macerie nei giardini e talvolta nella strada, e che tutti insieme la faccenda andasse bene sul carso, rese l'autunno molto diverso dall'ultimo autunno che avevamo passato in campagna. Anche la guerra era cambiata. La foresta di querce sulla montagna di là della città era scomparsa. La foresta era stata verde nell'estate quando eravamo entrati in città, ma adesso c'erano i ceppi e i tronchi spezzati e il terreno sconvolto. E un giorno, sul finire dell'autunno, che mi trovavo dove c'era stata la foresta di querce, vidi una nuvola avanzare sulla montagna. Avanzò molto in fretta e il sole divenne giallo pallido. E poi fu tutto grigio e il cielo coperto e la nuvola scese dalla montagna. E ci fummo dentro all'improvviso. Ed era neve. La neve cadeva obliqua contro vento. Il terreno nudo ne fu coperto, sporgevano i ceppi degli alberi. C'era neve sui cannoni e c'erano orme sulla neve che andavano alle latrine dietro le trincee. Più tardi, giù in città, guardavo cadere la neve dalla finestra della casa di tolleranza per gli ufficiali, dove a un tavolo con un collega e due bicchieri bevevo una bottiglia di Asti, e guardando fuori la neve che cadeva lenta e pesante, capimmo che per quell'anno era finita. A monte del fiume le montagne non erano state conquistate. Nessuna delle montagne di là del fiume era stata conquistata. Tutto restava per l'anno dopo. Il mio collega vide il cappellano che dalla mensa andava in strada camminando guardingo nella fanghiglia e batté sul vetro per attirare la sua attenzione. Il cappellano alzò gli occhi, ci vide e sorrise. Il mio collega gli fece cenno di entrare. Il cappellano scosse la testa e proseguì. Quella sera a mensa, dopo gli spaghetti che tutti mangiavamo molto in fretta e con serietà, levandoli sulla forchetta finché i fili sciolti non si fossero districati e poi abbassandoceli in bocca, oppure continuando ad alzarli e succhiarli in bocca, e ci versavamo il vino da un fiasco impagliato. Il fiasco ondeggiava in un portafiaschi di metallo e si tirava giù per il collo con l'indice, e il vino, rosso chiaro, aspro e gustoso, scendeva nel bicchiere tenuto con la stessa mano. Quella sera, dopo gli spaghetti, il capitano incominciò a punzecchiare il cappellano. Il cappellano era giovane e arrossiva facilmente e vestiva in uniforme come noi, ma con una croce di velluto rosso scuro sul taschino sinistro della giubba grigia. Il capitano parlava in italiano pidgin, perché secondo lui così capivo meglio e nulla andava perduto. «Cappellano oggi con donne», il capitano disse guardando il cappellano e me. Il cappellano sorrise e arrossì e scosse la testa. Questo capitano lo punzecchiava spesso. «Non vero?» chiese il capitano. «Oggi visto cappellano con donne?» «No», disse il cappellano. Gli altri ufficiali si divertivano alla punzecchiatura. «Cappellano non con donne», continuò il capitano. «Cappellano mai con donne», mi spiegò. Prese il mio bicchiere e lo riempì, guardandomi sempre negli occhi, ma senza perdere di vista il cappellano. «Cappellano, tutte le notti 5 contro 1!» Tutta la tavola rise. «Capito? Cappellano, tutte le notti 5 contro 1!» Fece un gesto e rise forte. Il cappellano accettò lo scherzo. Entrò qualcuno, e mentre la porta si apriva vidi la neve che continuava a cadere. «Non ci sarà più offensiva ora che è venuta la neve», dissi. «No, di certo», disse il maggiore. «Dovete andarvene in licenza, dovete andare a Roma, Napoli, Sicilia. Deve visitare Amalfi», disse il tenente. «Ti scriverò un bigliettino per i miei ad Amalfi, ti vorranno bene come un figlio. Deve andare a Palermo, deve assolutamente andare a Capri. Mi piacerebbe che vedesse gli Abruzzi e andasse a trovare i miei a Capracotta», disse il cappellano. «Sentilo lui con gli Abruzzi. C'è più neve che qui. Lui non vuole vedere contadini, deve andare in centri di cultura e di civiltà. Ha bisogno di belle ragazze. Ti darò qualche indirizzo di Napoli, belle ragazzine, accompagnate da mamma. Il capitano distese la mano aperta, col pollice in su e le dita spiegate come quando si fanno le ombre cinesi. Si vedeva l'ombra della sua mano sulla parete. Parlò di nuovo in italiano pidgin. Andare così, indicò il pollice, e ritornare così, toccò il mignolo. Risero tutti. Guardate, disse il capitano. Distese di nuovo la mano. Di nuovo la luce della candela ne proiettò l'ombra sulla parete. Incominciò dal pollice diritto e nominò l'uno dopo l'altro il pollice e le quattro dita: sottotenente, il pollice, tenente, l'indice, capitano, il medio, maggiore, l'anulare e tenente, colonnello, il mignolo. Andare sottotenente, ritornare sottocolonnello. Risero tutti. Il capitano aveva un grande successo coi suoi giochi di dita. Guardò il cappellano ed esclamò: tutte le notti il cappellano 5-1. Tutti risero di nuovo. Dovete andare subito in licenza, disse il maggiore. Verrei volentieri con te per farti vedere le belle cose, disse il tenente. Quando torni, porta un grammofono, porta buoni dischi d'opera, porta Caruso. No, non portare Caruso, abbaia. Di' la verità che ti piacerebbe abbaiare come lui. Abbaia, ti dico che abbaia. Vorrei proprio che andasse negli Abruzzi, disse il cappellano. C'è buona caccia. La gente le piacerebbe, anche se fa freddo e asciutto e sereno. Potrebbe stare coi miei. Mio padre è un famoso cacciatore. Su, disse il capitano. Andiamo al casino prima che chiuda. Buonanotte, disse al cappellano. Buonanotte, disse lui. Quando ritornai al fronte eravamo ancora in quella città. C'erano molti più cannoni nei dintorni ed era arrivata la primavera. I campi erano verdi e c'erano piccoli germogli verdi sulle viti. Gli alberi lungo la strada erano coperti di foglioline e un venticello arrivava dal mare. Vidi la città con la collina e il vecchio castello sopra in una cunetta tra le colline di qua delle montagne. Montagne brune con un po' di verde sui pendii. In città c'erano più cannoni, qualche ospedale nuovo. Per la strada si incontravano degli inglesi, a volte anche delle inglesi, e qualche altra casa era stata colpita dai bombardamenti. Faceva caldo come fa a primavera. E scesi per il viale alberato riscaldato dal sole sul muro e trovai che eravamo ancora nella stessa casa e che tutto pareva come l'avevo lasciato. La porta era aperta. C'era un soldato seduto su una panca al sole. Un'ambulanza era ferma all'ingresso laterale e dentro la porta, quando entrai, c'era l'odore dei pavimenti di marmo e di ospedale. Era tutto come lo avevo lasciato, solo che adesso era primavera. Guardai dalla porta del salone e vidi il maggiore seduto al suo tavolo, la finestra aperta e il sole che entrava nella stanza. Non mi vide e non sapevo se entrare e presentarmi o andare prima di sopra a lavarmi. Decisi di andare di sopra. La stanza che dividevo col tenente Rinaldi guardava sul cortile. La finestra era aperta, il mio letto era rifatto con le coperte e la mia roba era appesa alla parete. La maschera antigas in una scatola di latta oblunga e l'elmetto d'acciaio sullo stesso piolo. Ai piedi del letto c'era la mia cassetta piatta e gli scarponi da montagna col cuoio lucido di grasso. Erano sulla cassetta. Il mio fucile di precisione austriaco tipo Schützen, dalla canna ottagonale azzurrognola e dal bel calcio ben incapato di noce scuro, era appeso sopra i due letti. Ricordavo che il telescopio da applicargli era chiuso nella cassetta. Il tenente Rinaldi stava dormendo sull'altro letto. Si svegliò quando mi sentì nella stanza e si rizzò a sedere. «Ciao», disse. «Come te la sei passata?» «Magnificamente». Ci stringemmo la mano, poi egli mi abbracciò e mi baciò. Ah, dissi. Sei sporco, disse. Bisogna che ti lavi. Dove sei andato? Che cosa hai fatto? Dimmi subito tutto. Sono andato dappertutto. Milano, Firenze, Roma, Napoli, Villa San Giovanni, Messina, Taormina. Sembri un orario ferroviario. Hai avuto qualche bella avventura? Sì. Dove? Milano, Firenze, Roma, Napoli. Basta, dimmi sul serio, qual è stata la migliore? A Milano. Perché è stata la prima? Dove l'hai incontrata? Alcova? Dove siete andati? Com'è andata? Dimmi subito tutto. Sei rimasto tutta la notte? Sì. Questo è niente. Ora qui abbiamo delle belle ragazze, ragazze nuove, mai state al fronte. Magnifico. Non mi credi? Andremo oggi stesso e vedrai, e in città ci sono delle belle ragazze inglesi. Ora sono innamorato di Miss Barclay. Voglio condurti da lei. È probabile che sposerò Miss Barclay. Devo lavarmi e mettermi in rapporto. Non lavora nessuno adesso. Da quando te ne sei andato non ci sono stati che congelamenti, geloni, itterizia, gonorrea, autolesioni, polmoniti e ulcere dure e molli. Tutte le settimane qualcuno si ferisce con scheggi di roccia. Ci sono pochi feriti veri. La settimana prossima ricomincia la guerra. Pare che ricominci. Così dicono. Credi che faccio bene a sposare la Barclay? Dopo la guerra, naturalmente. Si capisce, dissi, e riempii d'acqua il catino. Stasera mi racconterai ogni cosa, disse Rinaldi. Ora devo tornare a dormire per essere fresco e bello per la Barclay. Mi tolsi la giubba e la camicia e mi lavai nell'acqua fredda del catino. Mentre mi stropicciavo con un asciugamani, guardavo in giro per la stanza e fuori della finestra e Rinaldi sdraiato sul letto con gli occhi chiusi. Era un bel ragazzo, aveva la mia età e veniva da Amalfi. Faceva volentieri il chirurgo ed eravamo molto amici. Mentre lo guardavo, aprì gli occhi. «Hai quattrini?» «Sì». «Prestami 50 lire». Mi asciugai le mani e tirai fuori il portafoglio dalla tasca interna della giubba che era appesa alla parete. Rinaldi prese il biglietto, lo piegò senza alzarsi dal letto e lo ficcò nella tasca dei calzoni. Sorrise. «Devo dare alla Barclay l'impressione di essere abbastanza ricco. Sei un gran buon amico e anche un mecenate». «Ma vai all'inferno», dissi. Quella sera a mensa sedetti accanto al cappellano, che fu deluso e si offese d'improvviso perché non ero andato negli Abruzzi. Aveva scritto al padre che sarei andato e avevano fatto dei preparativi. Rimasi male quanto lui e non riuscivo a capire perché non fossi andato. Avrei voluto farlo e cercai di spiegare come una cosa avesse tirata l'altra e finalmente si rese conto e capì che avrei davvero voluto andarci. E la faccenda fu quasi sistemata. Avevo bevuto una quantità di vino e poi caffè e strega e spiegavo, pieno di vino, come noi non facciamo mai le cose che desideriamo. Non le facciamo mai. Noi due chiacchieravamo mentre gli altri discutevano. Avevo desiderato andare negli Abruzzi. Non ero andato in nessun posto dove le strade fossero gelate e dure come il ferro, dove vi fosse un freddo sereno e asciutto, e la neve fosse asciutta e farinosa e sulla neve peste di lepre i contadini si levassero il cappello e vi chiamassero signoria e ci fosse una buona caccia. Non ero andato in nessun posto di questo genere, ma nel fumo dei caffè e in notti che la stanza gira intorno e si deve guardare la parete per fermarla. Notti in un letto, ubriachi, che non c'erano altro fuori di questo e la strana esaltazione di svegliarsi e non sapere chi sia accanto. E tutto il mondo irreale nel buio è così esaltante che si deve ricominciare a non preoccuparsi nella notte, certi che questo è tutto, è tutto, è tutto, e non preoccuparsi. Ma di colpo preoccuparsi molto e dormire e a volte svegliarsi in questo stato la mattina e tutto quello che è accaduto, passato, è tutto tagliente, duro e limpido e a volte una discussione sul prezzo. A volte tutto il bello passato e contenti di uscire per la strada, ma sempre un altro giorno che incomincia e poi un'altra notte. Cercavo di parlare della notte e della differenza tra la notte e il giorno e come la notte fosse meglio, a meno che il giorno fosse molto limpido e freddo e non mi riusciva di spiegarmi, come non mi riesce adesso. Ma se lo avete provato, lo sapete. Lui non lo aveva provato, ma capiva che io avevo davvero voluto andare negli Abruzzi, ma non c'ero andato. Ed eravamo sempre amici, con tanti gusti in comune, ma con questa differenza tra noi. Lui aveva sempre saputo ciò che io non sapevo e che quando lo imparavo riuscivo sempre a dimenticare, ma non lo sapevo allora, anche se più tardi l'ho imparato. Intanto eravamo tutti a mensa, avevamo finito di mangiare e la discussione continuava. Noi due smettemmo di parlare e il capitano gridò: «Cappellano non felice, cappellano non felice senza donne!» «Sono felice», disse il cappellano. «Cappellano non felice, cappellano desidera austriaci vincere la guerra», disse il capitano. Gli altri ascoltavano. Il cappellano scosse il capo. «No», disse. «Cappellano desidera noi non attaccare mai. Vero che non vuole che attacchiamo?» «No, se c'è la guerra dobbiamo pure attaccare.» «Dobbiamo attaccare. Attaccheremo», il cappellano annuì. «Lasciamolo solo», disse il maggiore. «Ha ragione. A ogni modo non può farci nulla», disse il capitano. Ci alzammo tutti e ce ne andammo da tavola.